Io volevo ringraziare Gigi a nome del Folletto, della Terra Trema e i produttori per aver messo a disposizione le bottiglie, che sono Rocche Viberti, Cascina del Monastero, Le Grascete e Brunnen & Mattson.